che vi turbò sto meglio a inconta guisa ucciderete avervi d'uopo cura dell'esser vostro e non potrei o se mia foste custode veglierei per vostri soavidi e dite apposti al cielo una di me perché nessuno il mondo ama nessuno tranne sol io ma io vero sì grande amor dimenticato mio vivete e voi un cor sì forse e a quello richiedete ma se ciò fosse non potreste allora celiar dite davvero io non vi inganno da molto e che mi amate ah sì da un anno un dì felice e Non ho altro che te, Thank you. Nasca il giorno, gioia, sempre lieta nel ritrovi. Passa

parlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allor. Qual figlia? Qual figlia m'abbracciare? Forte così sarò. Tra breve il vecchio reso, afflito il tre ogni dire, a sua concordante collaborerete. Pensate, sapendolo vorreste al bel sier mio. Generosa è per voi che parto sia, e parto sia, o Conoscere il sole. silenzio va l'istante. Ed or si scriva lui. Ed io, chi me darà il coraggio? Mi lasciava, però l'attendo, t'amerai in vederti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, ai miei vestiti mi gemerò, i visi più non ne vorrà. Sarem felici, sarem felici, perché tu m'ami, Alfredo, tu m'ami, non è vero. Aguanta, perché piangi? Di lacrime a me a tuo, son tranquilla, lo vedi, ti sorrido, lo vedi, son tranquilla, ti sorrido. Oggi forse più non verrà mio padre. La signora è partita, la temeva un calesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva. Il so ti calma. Che vuol dir ciò? Ma forse d'ogni avere ad affrettar la perdita, ma Annina lo impedirà. Qualcuno è nel giardino, chi è là? Il signor Cervon. Son io. Una dama da un cocchio per voi di qua non lunge mi diede questo scritto. Di Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo. Oh ciel, coraggio, Alfredo, al giungervi di questa foglia. Padre mio, mio figlio, quanto soffri, tergil pianto, ritorna di tuo padre. Orgoglio e vanto. Thank you. barone, i vidi ieri ancor, pareva felice. È troppo bene! Thank you. credete? Che non è vero, il vero. A voi non un sol detto si volga questo Alfredo. Non un detto, non un detto. Sfortuna nell'amore, fortuna regga il gioco. E sempre vincitore. O vincerò stasera e l'oro va bagnato. O sciagoder tra i campi ritornerò beato. Sarà? No, no. Tale che mi fumeco ancora. Signor, frenatevi, io vi lascio. Parole m'appellaste, siete sì gran fortuna che al gioco mi tentaste. Sì, la vi sfida c'è. La manca cento, un asso, un fante, hai vinto, il doppio sia, un quattro, un sette, ancora, pur la vittoria mia, bravo davvero la sorte, è tutto meno freddo, hai miglior la spesa, hai davanti il vedo. Seguite pur la cena è pronta. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Pietà grandio, pietà grandio di me. Se continuar v'aggrada, per ora non possiamo. Più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Seguiam gli amici. Poscia sarò qual brame. Andiam. Sulla verità, ruggerti il

Thank you.

Oh, ritorno, grazie rendiamo. Tu impallidisci e nulla sai, gioia improvvisa non entra mai, senza turbarlo il mesto cuore. Gran Dio, Violetta! E il mio malore fu debolezza. Cruda sorte! Fu nulla, Annina, dammi a vestire! Adesso, attendi! No, fu uscire! Più a me da presto Quando non vorrei non dirmelo, dei vive la Maria, ma straziati dalle, qui non mi trasentia, qui non mi Stop!